Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ognuno di noi ne va alla ricerca e non è una ricerca semplice. Per qualcuno è addirittura una ricerca infinita. Ci si investono energia, tempi, fatica. A volte si cambiano anche strategie, modi. È la ricerca del proprio punto di equilibrio ed è quel passaggio della vita, o meglio quel percorso della vita che si trova costantemente in cammino, eternamente sospesi tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere, tra il luogo in cui ci troviamo e quello in cui vorremmo andare. Buongiorno da Nicoletta Carbone, oggi parliamo di equilibrio. Che cos'è per voi e cosa fate per raggiungerlo, mantenerlo, recuperarlo? Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di... Il vostro centro, il nostro centro di gravità permanente, dov'è, com'è, come facciamo a trovarlo? E se Franco Battiato ha preso in prestito dal mondo della fisica una metafora e un'immagine per raccontarci il suo concetto di equilibrio, noi oggi prenderemo ispirazione dalla medicina cinese per capire cosa un'altra cultura, un'altra filosofia di vita ci dice, ci racconta a proposito. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Maurizio Corradin, medico, esperto di medicina cinese, medicina dello sport e direttore scientifico di LeFei. Dottor Corradin, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti. Dottore, c'è una formula per ritrovare equilibrio, una ricetta antica che ha tantissimi anni e ci dice che per stare in equilibrio e quindi... dico io, bene con noi stessi, con l'ambiente che ci circonda, dobbiamo amare, mangiare e decidere. E io mi dico tutto qui, no? Perché è troppo facile per funzionare. Chi di noi non ama, chi di noi non mangia, chi di noi, volente o nolente, non prende decisioni ogni giorno. Ma, dottor Corradin, tanto che pensavo questo, mi dico... Beh, in effetti però l'amore, il cibo, le scelte sono proprio gli aspetti della vita che ci mettono più in difficoltà. Chi di noi non ha, ad esempio, non ha avuto in amore una relazione a rischio? Quanti hanno un rapporto conflittuale col cibo e quanti ancora sono incapaci di prendere decisioni? Non hanno trovato la strada, rimangono sospesi. Allora, proveremo proprio oggi con il suo aiuto a prendere dalla medicina cinese quello che ci serve, dottor Corradin, per stare bene con noi stessi, nel corpo e nella mente. Perché è qua, no, che la forza della medicina cinese, la direzione. Soma e psiche sono assolutamente più che legate, intrecciate. Assolutamente sì, questo è il punto fondamentale. In realtà, come abbiamo già detto e ripetiamo ora, è molto facile, è possibile, beh, molto facile non è mai nulla, però è possibile ricercare i propri centri, e il termine centro per la medicina cinese ha proprio un significato preciso. Ci sono questi tre centri, uno più spirituale, uno più mentale e uno più fisico, grazie ai quali noi possiamo stare bene con noi stessi, possiamo interagire bene con il mondo, possiamo, e questa è la lampadina, è la spia che ci indica quando cominciamo ad essere centrati, se mi passate il termine, sì. E possiamo vedere quando cominciamo a non essere più centrati noi stessi. Ad esempio, una cosa molto semplice, è evidente che il mondo ci dà continuamente stimoli e non sempre sono stimoli propositivi. Quando basta un alito di vento, quando basta molto poco per farci sentire nervosi, agitati, col mal di testa, rimuginativi, beh, allora significa che i nostri centri non sono ben equilibrati, e possiamo ritrovare il nostro equilibrio sia agendo a livello più spirituale, sia agendo a livello più mentale o anche volendo a livello più fisico. Oggi cerchiamo di capire che cosa in noi in questo momento stona, e dottor Corradin, può essere qualcosa che a livello mentale o a livello fisico? Assolutamente sì, è possibile agire a tutti i livelli. Come abbiamo avuto occasione di dire, la medicina cinese ci dice che mente, corpo e, se volete, spirito, anche se è un termine un po' abusato, rappresentano tre modi che abbiamo per ritrovare la serenità dentro di noi. E, permettimi di ripeterlo, è possibile agire ovviamente su tutti e tre i piani, ma è anche possibile agire su uno di questi per cominciare un nostro percorso, se volete con un termine un po' abusato, per iniziare il nostro cammino. Facciamo di un esempio. Ad esempio, se io in questo periodo dell'anno avverto che ho più abbastanza dei mal di testa frequenti, lei mi potrebbe suggerire, dottor Corradin, che cosa? Da dove parte? Un sintomo? Che racconta molte cose a un medico di medicina cinese, anche a un medico della medicina occidentale, ma ovviamente poi si tratta di vedere che tipo di mal di testa, ma comunque consideriamo una delle forme più frequenti, che è la cefalea muscolotensiva, che è quella forma di cefalea gravativa con un casco che ci colpisce nella parte posteriore della nuca, quel tipo di cefalea che magari ci sveglia di notte, quel tipo di cefalea che sappiamo essere dovuto a quello che si dice all'eccesso di stress. Sì. Ovviamente si può andare dal medico e cominciare a fare prendere sia farmaci antinfiammatori in fase acuta, sia andare da un medico ad esempio di medicina cinese, ma anche ad altri, per fare un po' di agopuntura. Però ripeto, queste sono anche un campanello d'allarme che si accende per dire che forse dobbiamo rivedere la nostra vita. Tu non sai quante volte io dico a qualche mio paziente: ma perché non andate a farvi una passeggiata al mare invece di venire da me? È altrettanto efficace, spendete anche meno. Ma questo è chiaramente un po' è una provocazione, un po' una battuta, però ha il suo nocciolo di verità all'interno, cioè a volte siamo talmente presi all'interno del nostro stile di vita, del nostro meccanismo di vita che abbiamo creato, della nostra sequenza quotidiana di fatti ed eventi che abbiamo creato noi, che però in qualche modo ci stritolano, che il nostro corpo risponde con dei campanelli d'allarme. Ti ho fatto l'esempio specifico di andarsi a fare una passeggiata al mare. Passeggiare attiva uno dei centri della medicina cinese, quello che tu prima dicevi scegliere. Scegliere, sì, è uno dei meccanismi di un meccanismo più globale che si chiama vescica biliare, che coinvolge anche l'attività sportiva. L'attività sportiva, sia che venga letta in medicina occidentale, quindi aumento delle encefaline, delle endorfine, rimodulazione dell'assetto ormonale del corpo, sia che venga letto in medicina cinese, rappresenta un grande modo per riattivare, per riequilibrare, per rinormalizzare l'intero organismo. Allora, e ai nostri amici a casa, la domanda di oggi, la direzione su cui lavorare per prendersi proprio cura di sé è: mi sento in equilibrio quando? Perdo l'equilibrio se? Partiremo proprio da un segnale che voi avvertite come stonato nella vostra quotidianità. Può essere un sintomo, può essere un mal di testa, può essere un pensiero fisso, può essere una voglia esagerata di alcuni alimenti, oppure l'insonnia. Voi raccontatecela, e il dottor Corradine, questo oggi ne scopriremo degli approcci nuovi, scopriremo come la medicina cinese, per altre strade che sembrano un po' lontane, no, dal sintomo che avvertiamo, ci riporta ad un equilibrio. Dottor Corradino, ha detto giusto? Ah, hai detto perfettamente. Volevo solo Sono diventata un po' medico cinese. Assolutamente sì. Allora, volevo solo rifare un attimo il punto. Allora, come dicevo, per la medicina cinese ci sono tre centri. Sì. Uno si chiama centro cuore, quello che tu hai sintetizzato con il termine la necessità di amare, che non è solo l'amore di senso erotico, è anche però, per questo, no? Ah, sicuramente sì, però in realtà è l'amore per quello che stiamo facendo, l'amore per la nostra vita, è vita ti amo, è la capacità di urlare il piacere della vita nel momento in cui lo vivi. In realtà, se questo è assolutamente vero, esiste anche un altro sistema per attivare il cuore centro, che è il legame con la propria religione. Sì. Ti ricordo e ricordo che religione deriva da religo, etimologicamente è il legame di noi stessi con il nostro profondo. Quindi, da un lato la possibilità è amare la vita in quello che stiamo facendo, e dall'altro il legame con la propria religione, cioè con qualcosa di molto profondo dentro di noi che ci può dare forza nei momenti di difficoltà. E questo è uno. È il cuore. E questo è il cuore. quindi che in una sola parola diciamo la capacità di amare, è l'amore senza se e senza ma. Poi esiste un altro centro, che è il centro che noi chiamiamo Milza, il centro che non è la Milza ovviamente della medicina occidentale, è molto più ampia. Noi diciamo che è il centro dell'acquisito, è la capacità di interagire con l'esterno, è la capacità di prendere tutto ciò che ci sta nel nostro esterno e farlo diventare una parte di noi. In un termine, come tu prima hai sintetizzato, è nutrizione. Però non è semplicemente o solamente la nutrizione alimentare, sono gli stimoli che noi prendiamo dal mondo esterno, è la nostra capacità di alimentarci andando a vedere un museo, se ci piacciono i musei, o se ci piace la musica, di ascoltare la musica, quindi è, come diceva il mio amico il professor Di Stanislao, è la musica come nutrimento, è la capacità di prenderci dall'ambiente esterno quegli alimenti fisici e meno fisici che poi dentro ci danno serenità, dove noi sentiamo che il livello di tensione gradualmente, lentamente magari, ma gradualmente diminuisce e ci sentiamo in pace con noi stessi, e questo è il secondo centro della medicina cinese. E poi c'è il terzo centro che dicevamo prima, che è il centro vescica biliare, questo è la nostra capacità di scegliere, che è molto facile da dire, più complicato da fare, specialmente perché dopo fatto una scelta abbiamo sempre la domanda: ma avrò fatto bene? Se mi permetti una metafora, certo. Io dico sempre che la vita in fondo è una strada con molti incroci, quindi noi percorriamo la nostra strada, arriviamo a determinati incroci e lì si fa una scelta, si sceglie di andare a destra o a sinistra in funzione di quello che vedevamo in quel momento, degli stimoli emozionali di quel momento. Quello che poi oggi ricordiamo di quella scelta sono spesso le conseguenze, ma in realtà io in quel momento non lo sapevo delle conseguenze, non potevo prevedere il futuro in quel momento. Detto in altri termini, quello che è essenziale è lasciare andare le cose. Le scelte che ho fatto ieri sicuramente le posso riosservare, le posso analizzare, ma devo cercare di ricordare, primo, che di quella scelta non conoscevo il futuro, secondo, e altrettanto ovviamente importante, il tessuto, la struttura emozionale che avevo nel momento della scelta. Sai, io dico sempre in modo un po' provocatoriamente ai miei amici e ai miei pazienti che io non ho mai sbagliato nella mia vita. Non ho mai sbagliato perché con la testa che avevo in quel momento in cui ho fatto quella scelta, per quello che vedevo in quell'incrocio della mia vita, ho preso quella direzione. Proverò a dirlo anch'io, è vero. Da questo punto di vista nessuno di noi sbaglia, perché oggi, partendo proprio da un sintomo, da un segnale, andremo un pochino in questi meandri, no, che si intrecciano tra soma e psiche, per trovare un suggerimento, per ritrovare l'equilibrio, e l'equilibrio ce l'ha, sui pattini e non solo, Valentina Marchei, che è in linea con noi. Valentina, bella. Buongiorno a tutti. Senti, sui pattini tu piruetti, volteggi, ci sembri nata, invece dura a trovare anche l'equilibrio lì, proprio come nella vita. Assolutamente sì. Beh, si incomincia da piccoli, perché si sa, è molto più facile acquisire un certo equilibrio da piccoli che da grandi. Da grandi sì, si può, ma i tempi raddoppiano, insomma. Quindi ho incominciato da piccola e adesso mi trovo così. No, il lavoro, perché si lavora sull'equilibrio, si lavora anche proprio sull'equilibrio mentale, per capire come stare in equilibrio con te stessi per poi essere perfetta sul ghiaccio. E certo, per te l'equilibrio, tu l'equilibrio proprio lo senti e lo vivi, come ogni di solito, no? Gli atleti, dottor Corradin, le persone, lei è anche medico sportivo, che lavorano molto sul corpo, devono prepararsi a delle prestazioni, devono tenere queste dimensioni ben sotto controllo, ma alcuni atleti più di altri, ad esempio noi abbiamo chiamato Valentina, per cui abbiamo un debole, proprio perché ci sono delle attività sportive che richiedono un particolare equilibrio. Penso a Valentina, penso anche alle ballerine di danza classica quando sono sulle punte. Valentina, ma tu che sei così equilibrata, qual è il tuo punto debole, quello che più facilmente ti scentra? stare lontano da casa. Che carina, stare lontano da casa. Dottor Corradin, a me viene un che carina da mamma. A lei, come medico di medicina cinese, che cosa racconta questo sintomo? Guarda, questo tra virgolette, è il prototipo di una situazione. Poi spiego, ovviamente nessun segno è importante di per sé, però è proprio molto caratteristica questa frase detta dalla nostra amica. Allora, la lontananza da casa per la medicina cinese c'entra un po' quello che viene chiamato il sistema MIL, cioè il sistema di nutrizione. E questo mi è proprio uno spunto per ribadire il concetto. Nutrizione non è semplicemente la nostra alimentazione, sono i nostri affetti. È come riusciamo a prenderci il territorio che ci sta attorno, il legame con la propria famiglia, che è assolutamente normale ovviamente e che è assolutamente comprensibile, specialmente quando qualcuno sta molto lontano da casa, però indica una relazione preferenziale lungo il centro milza, cioè la necessità di prenderci da ciò che ci sta attorno e la mancanza conseguentemente quando siamo via da casa, sì, di quella nutrizione che entra all'interno del nostro corpo e regola tutto l'energia dell'organismo. Dottor Corradin, e quindi fatta questa sorta di diagnosi, lei suggeriva che non basta sicuramente un aspetto, un sintomo, ma che cosa potrebbe suggerire la medicina cinese ad una grande atleta come Valentina, che e poi a tutte le persone che sentono un po' la nostalgia di casa? Questo è quasi inevitabile. Ci sono poi anche dei segni fisionomici, ad esempio la grandezza del lobo che indica persone che hanno più questa nostalgia e un po' meno questa nostalgia. Per dirti, in agopuntura sicuramente l'utilizzo di piante, l'utilizzo di alcuni punti, ma anche di piante medicinali molto più semplici che nutrono questa funzione. Mi viene in mente la melissa, mi viene in mente l'ortica, quindi delle piantine occidentali, delle tisane che possono anche regolarizzare questa cosa, che ti ripeto però è assolutamente normale. Cioè, no, ma certo, però ci aiuta, ci sono tante, se noi ci raccontiamo, e oggi possiamo farlo al dottor Corradin, troviamo anche, come diceva il nostro esperto, una traduzione nella quotidianità occidentale che può aiutarci a metterci in cammino alla ricerca dell'equilibrio. Penso che la chiave di molte cose sia l'equilibrio, che sia l'equilibrio del potere, equilibrio in amore. Per alcuni di noi sembra molto difficile da raggiungere. Troppo difficile da conquistare. Ma la cosa più importante è non smettere mai di tentare. E abbiamo Elisa che ci chiama da Torino. Buongiorno. Sì, buongiorno. Complimenti per tutto. Senta, volevo chiedere al dottore, io ho un'ernia cervicale lato sinistro di 2, di 3, non mi ricordo più. Quest'ernia mi provoca dolore e si irradia verso il braccio, tutto il braccio, fino al gomito. Ora, la mia domanda è questa: la medicina cinese può risolvere il mio problema? Perché ho fatto infiltrazioni, ma... Sono servite a poco. Dottor Corradin, soprattutto perché la medicina cinese in ogni organo, in ogni distretto vede, no? Ha una duplice visione. Ci sono anche le emozioni dentro i nostri organi. Ah, sicuramente. Allora, intanto la risposta è sicuramente sì. Ovviamente niente fa mai miracoli, nel senso che bisogna fare una diagnosi precisa sia dal punto di vista occidentale, mi sembra, perché poi i dolori del braccio sono legati fondamentalmente a queste ernie da C5 di solito, da C4 fino alla ottava radice, però anche questa è però una diagnosi occidentale, certo. Mentre la diagnosi energetica è ovviamente diversa e sicuramente sia la medicina occidentale, ovviamente, sia la medicina cinese possono, talvolta insieme, anche associate, perché non necessariamente sono in alternativa, talvolta anche associate possono essere un aiuto importante per trattare questi dolori. Poi ovviamente come sempre, fra la diagnosi clinica e la diagnosi radiologica c'è sempre una distanza, nel senso che non sempre, ormai in Occidente siamo un po' più abituati a fare delle lastre, bisognerebbe riabituarsi a fare una diagnosi clinica. Ovviamente l'assetto emozionale conta. Anche in queste situazioni conta. Che cosa, cosa l'ha stupita di questa cervicale che si irradia anche lungo il braccio? È vero che in medicina cinese ci sono anche delle parti del nostro corpo hanno anche una simbologia? No, sicuramente sì. Poi, ripeto, ogni sintomo ogni può essere letto in chiave diversa. Quindi la chiave di lettura più semplice e anche per molti aspetti più reale, quindi se c'è un'ernia che con una corrispondenza clinica, perché non sempre, ripeto, c'è questo, e questa è la lettura fisica più semplice. In realtà le braccia sono anche il modo in cui abbiamo di abbracciare il mondo, di andare verso il mondo, di andare emozionalmente verso il mondo. Poi io non so nel caso specifico dell'ascoltatrice se questo abbia un qualche tipo di significato. Certo è che un sintomo, che noi lo leggiamo sul piano fisico e va benissimo leggerlo sul piano fisico, può anche essere letto, non so se questo è il caso specifico, anche in chiave più simbolica. Questo io penso che sia un suggerimento, un'indicazione che possiamo dare ai nostri ascoltatori. Quindi oggi facciamo un po' la giornata del lamento, male qui. Essere e benessere. Renato, buongiorno, ci chiama da Treviso. Ma io volevo rapidamente presentare il mio caso. Io da 3 o 4 anni, dopo aver avuto un piccolo problema, un'ernia al disco, tra l'altro risolto, continuo ad avere dei problemi alle gambe. Alcuni medici sostengono che tutto parte dalla schiena, da una risonanza magnetica la schiena non propone nessun problema. Faccio yoga, faccio pilates, ho seguito una terapia di un osteopata dove mi ha consigliato di mantenere un certo tipo di dieta perché sembrava che l'acidità dello stomaco portasse ad avere quel problema. Sto facendo una riprogrammazione posturale, quindi anche seguito da un altro osteopata, e morale della favola, non ho risolto il mio problema. Non posso rimanere seduto più di 20 minuti, mezz'ora, perché dopodiché mi comincia il dolore alle gambe, e cerco di capire se qualcuno ha dei consigli. Grazie Renato. Dottor Corradin, è un caso abbastanza complesso, ma Renato ci dà lo spunto per raccontare una cosa che tutti conosciamo, ma su cui poi ci cadiamo dentro. Quando non riusciamo a risolvere un problema, passiamo da uno specialista all'altro. Certamente. E spesso il più delle volte non troviamo soluzione e allora forse complichiamo anche il problema, anche se è assolutamente naturale cercare di risolverlo. Dottore, in questo caso, senza entrare nel dettaglio di Renato, se volete, che può sempre scriverci a essere benessere@radio24.it, che cosa possiamo suggerire? Queste gambe che non riescono a trovare riposo? Allora, come dicevo, non bisogna poi vedere la situazione, bisogna anche ricordarsi che bisogna avere pazienza, nel senso che se uno sta facendo una riprogrammazione posturale, e in questo caso parlo da posturologo, ci vuole almeno un anno di lavoro, perché si riprogrammi c'è assolutamente bisogno di tempo. Quindi ripeto, quando c'è poi un caso specifico bisogna vedere. È interessante quando uno, ad esempio, non tanto questo caso, ma pensiamo alle persone che al mattino cominciano ad avere mal di schiena se rimangono a letto un'ora in più. Ho preso lo spunto dall'amico che ci diceva se sto seduto 20 minuti, perché ci sono delle persone, è chiaramente un problema di contratture muscolari e via dicendo, ma dal punto di vista si può fare anche una lettura più analogica. Ci sono delle persone che non riescono a stare a letto perché non riescono a stare sedute, perché non riescono a stare ferme, perché dentro hanno un meccanismo che gli dice sempre devi fare le cose, è giusto lavorare ed è sbagliato stare fermi. E queste cosa devono fare? Dato che io credo che siano tante le persone che hanno questa sorta di frenesia nel fare, mi dia un'indicazione molto semplice, una cosa che può aiutarci a prendere la direzione giusta, dottor Corradin. consideriamo solo una cosa: nessuno di noi, quando dice io, pone il dito nella testa, tutti poniamo il dito nel torace, pensiamo, no, quando diciamo mea culpa per coloro che vanno a messa, che battono il dito nel torace. Ecco, per noi il torace è la nostra capacità di stare nel qui e ora. Sai, c'era questo mio amico che diceva sempre: il passato va lasciato andare, il futuro degli dèi, il presente è nostro. La nostra capacità di fissarci in quello che stiamo facendo. Queste sono le tecniche di meditazione che aiutano molto lo spirito, però in realtà le tecniche di meditazione aiutano molto nello stress. Cercare di fermare la nostra testa e i nostri pensieri in quello che stiamo facendo in quel momento. Ecco. Adesso sono al telefono e sono in radio con voi, e quindi cerchiamo di essere qui senza pensare a quello che dovrò fare fra mezz'ora o quello che ho fatto ieri, cioè rimanere nel tempo dell'uomo, che è il presente. Francesco, buongiorno, ci chiama da Pavia. Carissimi, buongiorno e complimenti a tutta Radio 24, così non facciamo preferenze. No. E infatti anche perché voglio dire, siamo equilibrati, Francesco, proprio. E veniamo all'argomento della sua telefonata. Allora, parlando di male, il mio appunto non è tanto un male fisico quanto un male interiore, nel senso, io mi riportavo proprio al discorso principe che si faceva sull'equilibrio. Sì. Io lavoro a Pavia, quindi ringrazio Pavia di avermi dato il lavoro, ringrazio Stradella di avermi dato i primi anni di vita, anche se ho passato spessissimo al mare, difatti la mia, proprio mi ha scattata una molla quando ho sentito la famosa passeggiata al mare. Sì. E lei ha detto, Francesco, quel dottore dice una cosa che mi piace, perché per lei il mare è una ricarica. Allora, se ho 30 secondi spiego in molta sintesi, perché bisognerebbe star qui. Sì, ma sa che noi abbiamo tanti ascoltatori che aspettano. Grazie. Cerco di... Allora, il mio problema è questo, no? Io e mia moglie siamo non vedenti, questa volta ci ha inchiodati lo sciopero dei treni, di solito noi a fine settimana andiamo ad Alassio. Sì. Alassio per noi vuol dire libertà, camminare, muoversi, essere noi stessi, cercare di scaricare tutte le tensioni della settimana, dei 5 giorni della settimana. Quindi questo è in estremissima sintesi quello che, certo, quindi quello che dice Corradin è automaticamente il nostro pensiero. E sono stato costretto proprio a livello emotivo di telefonare e ha fatto bene, ha fatto molto bene, anche perché se il dottor Corradin le dicesse ma lei non può andare a farsi una passeggiata al mare, lei direbbe già lo faccio, quindi seguiamo, già facciamo le cose prima ancora che i nostri esperti ce le dicano. La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare. Mi fido di te. Dottor Corradin, la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare. Una lettura un po' da medicina cinese, questo giovanotti, mi verrebbe da dire, o no? Sì, no. Vede che l'abbiamo. Ecco, finalmente. Perché? Vabbè, allora, in realtà, come nei sogni, considera che anche i sogni sono stati già considerati in medicina cinese nel IV secolo avanti Cristo, e già nei sogni la voglia di volare è un segno, è un sintomo, anche se il termine sintomo è eccessivo, ma è fondamentalmente, per capirci, è un sintomo del bisogno di guardare le cose dall'alto, della necessità di guardare le cose dall'alto. A volte la vertigine è la non posizione fra un piano molto materiale, un piano molto fisico, il bisogno concreto delle cose e una necessità anteriore di stare più in alto, di guardare le cose dall'alto. In realtà poi la vertigine è comunque qualcosa di fastidioso che non ci permette né di un saldo contatto con il terreno, cioè con la materialità, né di alzarci in alto, di guardare le cose dall'alto e quindi di avere un panorama più ampio, sia dal punto di vista fisico che psicologico. In linea con noi abbiamo il dottor Marco Manfrin, otorinolaringoiatra al Policlinico San Matteo di Pavia. Dottor Manfrin, per lei l'equilibrio, per un medico occidentale, che cos'è? È un sistema complesso? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, è un sistema complesso, è un senso dell'equilibrio, che però non è un unico organo, si avvale di più organi che continuamente informano il cervello degli stimoli esterni, li porta li portano a conoscenza del cervello, e il cervello, quando tutto è armonico, quando tutto funziona bene, dice che siamo orientati bene nello spazio. Perché abbiamo bisogno, ci sono la vista, questo organo dell'equilibrio che è nascosto, protetto direi, all'interno del nostro orecchio, e poi tutti questi piccoli sensori che avvisano come delle piccole centraline. Esatto, è la propriocezione, molto rappresentata in alcune parti del nostro corpo, in altre un po' meno, ma comunque anche loro hanno la loro competenza, e direi che soltanto per dare dei numeri, in un soggetto adulto normale, ovviamente poi nella vita si cambia, basta pensare come acquisisce l'equilibrio un bambino e come diventa l'equilibrio in un anziano, ma in un adulto normale siamo quasi un 60% labirintici, un 30% visivi e un 10% cosiddetti propriocettivi. Queste percentuali possono variare in base al grado di allenamento o di preferenza della strategia sensoriale che ognuno di noi ha. E quindi in presenza di vertigini, di instabilità, il medico di medicina occidentale va a valutare se in questi tre sottosistemi, quindi il labirinto, la vista o il sistema di questi sensori, ci possono essere dei problemi? Esatto, va a esplorare queste tre funzioni e contemporaneamente verifica anche che, chiamiamolo così, il computer in centro, la centralina deputata a confrontarle, ad elaborarle, funzioni correttamente. E comunque per questo disturbo si può fare qualcosa, c'è una riabilitazione, anche questo è un modo per rimetterci in equilibrio, un altro genere di equilibrio, forse un po' diverso, un po' più, mi lasci dire, riduttivo rispetto a quello di cui stiamo parlando oggi, ma assolutamente importante per permetterci di fare una vita attiva, è vero dottor Manfrin? C'è una rieducazione. Proprio, hai indovinato, sì, ha centrato pienamente proprio la complementarità. Oggi siamo proprio, un messaggio che possiamo dare ai nostri ascoltatori, molti mi stanno scrivendo, mi gira la testa, io sono equilibrata come persona, ma spesso vedo il mondo che mi gira intorno o mi sembra di camminare sulle uova, quale messaggio possiamo dare? Il messaggio che si può dare è che comunque risorse l'organismo ne ha per vincere questa situazione, tutto sta a trovare dove c'è l'imperfezione in uno dei sottosistemi e sfruttare gli altri che funzionano bene per sopperire a questa situazione. Questo è lo scopo della riabilitazione, che direi ha un ruolo molto importante nel recupero dell'equilibrio posturale fisico dei nostri pazienti. Grazie dottor Manfrin. Grazie anche a lei, dottor Corradin. L'abbiamo a disposizione tutto l'anno e direi per fortuna, perché in alcuni casi è un vero tocca sana. Parliamo del limone. Quante volte, ad esempio, una limonata calda ci ha rimesso a posto? Usiamo il limone non solo per digerire, ma anche per aggiungere alla nostra dieta la preziosa vitamina C per sfruttarne il potere antiossidante, ma devo dire che all'elenco delle virtù note ai più del limone se ne aggiungono altre, forse meno note, ma conosciute e provate dalla ricerca. Cerchiamo allora di andarle a scoprire insieme a noi il professor Giorgio Battaglia, primario di nefrologia all'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicolette, buongiorno ai radioascoltatori. Dottor Battaglia, parlare delle virtù del limone è un invito a nozze per un medico siciliano. Infatti, sapendo dell'intervista che dovevo fare stamattina, invece di fare l'autostrada per venire in ospedale, ho fatto una strada provinciale piena di agrumeti e di limoneti in particolare. Vivo e lavoro in un posto meraviglioso in cui il Consorzio del Limone intitola gran parte dei comuni di questa zona. Quindi, un po' come Confucio diceva, mio Dio, dammi nella vita una casa piena di libri e un giardino con tanti limoni. Bellissima, anche perché la pianta di limone fiorisce quasi tutto l'anno, no? Sì, c'è sempre, e poi il profumo di questa pianta inebria, fa sentire gioiosi e un contatto veramente con la natura. E poi col mare la sera, col profumo di salsedine, questo profumo del limone è qualcosa... Dottor Battaglia, veniamo lì. Senta dottore, vitamina C, no? Noi associamo il limone alla vitamina C e facciamo bene, ma ci sono anche altre virtù del limone? Ma per esempio è talmente tanto studiato ormai anche